want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gege Telesco. Pomeriggio da Gege Telesforo, siete ancora una volta in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata quella di oggi che dedichiamo alla figura e all'espressione musicale di uno dei grandi artefici della black music ormai da qualche decennio, ovvero il signor Prince Rogers Nelson, nato a Minneapolis, in arte Prince, anche se poi nella carriera ha utilizzato vari appellativi per siglare contratti discografici rendendosi indipendente sotto il nome di TAFCAP, ovvero di artist formerly known as Prince, ovvero l'artista già conosciuto sotto il nome di Prince, ma molto spesso considerato semplicemente The Artist. Il signor Prince, cantante, chitarrista, polistrumentista, compositore, producer discografico, ma anche attore, regista e sceneggiatore, popolare ormai da diversi decenni, come dicevamo, è un artista poliedrico e nei suoi lavori, nelle sue produzioni discografiche, si risentono gli espliciti riferimenti ai grandi artisti della black music, a partire da James Brown, che il signor Prince ha studiato sotto diversi punti di vista, soprattutto per le performance dal vivo, anche nelle movenze. Prince, che è un eccellente ballerino, si rifà al linguaggio del corpo tipico di James Brown, ma anche ha studiato Sly and the Family Stone, il suono degli Earth, Wind and Fire, appassionato del funk psichedelico di George Clinton e della vena melodica di Stevie Wonder. Nella musica di Prince si sentono anche le influenze di grandi chitarristi del rock, a partire da Jimi Hendrix, ma anche il modo di arrangiare e di lavorare in studio di registrazione di un grande come Frank Zappa. La musica di Prince coinvolge così diversi stili che vanno dal funk all'R&B al soul, fino al rock classico, al pop, ma spesso si è confrontato anche con il rap e il rock sinfonico, producendo così un crossover musicale molto apprezzato dai fan ma anche dalla critica musicale. Il signor Prince è protagonista del soundcheck di Radio 24 e apriamo questo appuntamento con una performance dal vivo esplosiva realizzata nel 2002 con la partecipazione della sua super band New Power Generation e la partecipazione anche del sassofonista Maceo Parker. Prince dal vivo al soundcheck di Radio 24. We don't give a duck what you got on. Just need to work that sexy body all night long. Hands up, y'all. Eh sì, l'appuntamento di oggi del soundcheck è dedicato al signor Prince, qui ripreso dal vivo diversi anni fa, più o meno una decina di anni fa, con la sua strepitosa band New Power Generation e la partecipazione del sassofonista già della band di James Brown, Maceo Parker. Facciamo una breve pausa e torniamo con The Work. Soundcheck. Il suono della musica. Whatever's in our way, we gotta go through it to get to it. Heard somebody say that the way women do the work, women do what I gotta do. People tell me women do the work, yeah. What about you? You come around. Eh Eh sì, la puntata di oggi del nostro Soundcheck è dedicata alla figura, al carattere, allo spessore artistico di un grande protagonista della black music, il signor Prince, che qui abbiamo apprezzato con una sua composizione intitolata The Work, dalla quale viene fuori tutto il suo amore, tutta la sua passione per il funk e per lo stile tipico di James Brown. Dicevamo che Prince produce, canta, scrive e suona una musica che, pur restando profondamente legata alla tradizione nera, ha fatto propri elementi del rock, del funk, del pop in una miscela urbana, elettrica, nervosa e che sottilmente ribadisce costantemente la sua natura nera. L'inesauribile vena artistica del cantante di Minneapolis, che quindi compone, arrangia, produce, canta e suona i suoi lavori spesso in totale autonomia, lo porta a produrre continuamente nuovo repertorio, ma anche ad essere tra i pionieri della vendita online su internet. Infatti alcuni suoi prodotti, alcune sue produzioni sono acquistabili solo dal suo sito. Nel 2004 la rivista Rolling Stones lo inserisce fra i migliori 100 artisti di tutti i tempi. Quest'uomo, che inizia la sua produzione discografica nel 1978 siglando un contratto con la Warner Bros. Che lo rende il più giovane produttore discografico di tutti i tempi. Infatti Prince si chiude in sala di incisione e pochi mesi dopo ne esce con il suo primo album prodotto, scritto e suonato ed interpretato da lui stesso. Il titolo dell'album era For You e per questo album il signor Prince ha utilizzato un budget di $180,000 che la Warner Bros. Mise nelle mani del produttore esecutivo Tommy Vicari per la realizzazione però di 3 album. Prince si alterna così in studio di registrazione nel suonare tutti gli strumenti, dimostrando il proprio talento artistico, come pure l'uso degli strumenti in studio di registrazione, guadagnandosi così il titolo di nuovo Stevie Wonder. Qui Prince al soundcheck di Radio 24 ci propone una ballad strepitosa intitolata Call My Name. Call my name. This morning, calling out my name. It had been so long since I've heard it. Soundcheck, il suono della musica. Appuntamento del nostro soundcheck dedicato a Prince, che aveva fra i suoi fans anche il leggendario trombettista, eroe del jazz, innovatore della musica nera, Miles Davis. Io incontrai Miles Davis nel 1988 per un'intervista inserita nel programma televisivo Doc, che andava in onda su Rai 2 fra l'87 e l'89, e alla domanda qual è il suo artista di riferimento oggi, Miles Davis, senza pensarci due volte, mi rispose Prince. Tant'è vero che Miles Davis definiva Prince come un nuovo Duke Ellington, cosa che non venne digerita molto bene dall'ambiente del jazz, dai puristi come Wynton Marsalis. Ma il legame fra Miles Davis e Prince, pur avendo collaborato più volte, non è mai sfociato in una vera e propria produzione discografica. Prince è ancora oggi un artista di riferimento per la black music, continua a proporre dal vivo degli spettacoli che assolutamente non vanno persi, proprio perché sul palco si vede tutta la sua natura di eccellente performer, eccellente chitarrista e ottimo cantante. Continua la sua produzione discografica e ultimamente ci ha fatto assaporare il brivido del funk con una nuova composizione intitolata Breakfast Can Wait. Prince al soundcheck di Radio 24. Breakfast, breakfast, oh yeah, yeah. abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione per assaggiare il sound tipico di uno dei protagonisti della black music di oggi. Ormai da decenni ha iniziato la sua produzione all'inizio degli anni 70 e dagli anni 70 a oggi ha praticamente registrato quasi un album all'anno, e molti brani sono ancora nascosti in uno dei cassetti presenti lì nel suo archivio al Paisley Park, questo formidabile studio di registrazione costruito all'inizio degli anni 80 lì a Chanhassen vicino a Minneapolis. Prince chiude il soundcheck quindi con un brano intitolato Muse to the Pharaoh. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e noi ci risentiamo domani sempre alle 15:20 sempre su Radio 24, e per le vostre mail ecco l'indirizzo di posta elettronica è soundcheck@radio24.it. a tutti voi buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telespo. Primarily on how you view your role in eternity. If she could be muse to the Pharaoh, then one day she could be queen. Soundcheck, il suono della musica.